Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. I have buried the DeLorean in the abandoned Delgado mine adjacent to the old Boot Hill Cemetery as shown on the enclosed map. Hopefully it should remain undisturbed and preserved until you uncover it in 1955. Inside, you will find repair instructions. My 1955 counterpart, that's me, should have no problem repairing it so that you can drive it back to the future. Once you have returned to 1985, destroy the time machine. Destroy it? Yeah, well, it's a long story, Doc. Do not. I repeat, do not attempt to come back here to get me. I am perfectly happy living in the fresh air and wide open spaces, and I fear that unnecessary time travel only risks further disruption of the space-time continuum. On a warm Erano questi i bolognesi Saddlefish con Summer Drops, un estratto dalla loro ultima fatica. Prima ancora era stata invece la volta di Tiago Lies Losing the Plot con l'interludio di Jerizond. E si rimane negli Stati Uniti con i Clipped Beaks, formazione a cavallo fra Los Angeles e San Francisco, che incide per la Love Pump United ed esce in questo 2007 con un album dal titolo Horse Lords, dal quale io vado ad estrarre Melter. Ho fatto un sacco di lavori al porto di Los Angeles, perché la nostra famiglia era povera e mio padre era morto. Il mio primo lavoro, poco dopo la maturità, fu quello di spalatore di fossi. Di notte non potevo dormire per via del mal di schiena. Stavamo facendo uno scavo in un terreno, non c'era neanche un po' d'ombra. Il sole picchiava dall'alto di un cielo senza nuvole e io giù, in quella buca, a scavare insieme a due cani da valanga, che avevano una vera passione per lo scavo, sempre là a ridere e a raccontarsi barzellette, ridendo e fumando un tabacco puzzolente. Questo era l'incipit della Strada per Los Angeles di John Fante. is free. 'Cause anything worth fighting for doesn't come for free. We believe in time that you will see how a war might save us. How a war might save us. And realize that living's a battle. For all the times we cried, absorbed the lies, and realized life's not a rehearsal. Heartache. And please take care of Einstein for me. Einstein? He's your dog, Doc. Einstein, it's what you call your dog in 1985. I know he will give him a good home. Remember to walk him twice a day and that he only likes canned dog food. These are my wishes. Please respect them and follow them. Living from contract bridge, boring but magnificent. Surely you're amazed by it. Suddenly these processes do not seem significant. Now we are not worthy of friends. Open wide for sudden. From capital, everybody needs to eat, even dogs and customs men. Suddenly these ostriches do not seem so interesting. Now we are not worthy of tents. Open wide for che capitano, direi, abbastanza frequentemente nelle ultime settimane all'interno delle playlist di Eclettica. Future of the Left, appena ascoltati con Suddenly It's a Folk Song, e prima ancora Young Galaxy con Swing Your Heartache. Eclettica che va in onda tutti i giorni della settimana, la settimana quella lavorativa, quella che va dal lunedì al venerdì tra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM, sia le frequenze quelle tradizionali, quelle terrestri, lettere, che anche quelle satellitari, di cui trovate i dettagli sia su myspace.com/eclettica che su www.radiorockfm.com. Poi ovviamente c'è lo streaming via internet e al di là della diretta avete la possibilità di differire quando volete l'ascolto grazie al podcasting. I dettagli sui due siti già citati. Giulio Caperdoni che prosegue andando a riprendere invece un nome che manca da un po' di tempo dalle mie playlist, da qualche settimana. Sto parlando di The Shepherd's Dog, quello che è l'ultimo album di Iron and Wine uscito per Sub Pop. Un bel disco per cui Sam Beam, che è nient'altro che il nome all'anagrafe di Iron and Wine, ha dichiarato di essere ispirato a Swordfish Trombones di Tom Waits. Il brano che state per ascoltarvi è quello che lo apre, Pagan Angel and the Borrowed Car. Made of smoke and a fruit. chapel pews. Every morning we found one more machine to mock our ever-waning patience at the well. Every evening she'd descend the mountain stealing socks and singing something good where all the horses fell. Snake within the wilted garden wall and hint to her every possibility. While with his gun the pagan angel knows to say my love is one made to break every bending. Nella notte tra il 27 ed il 28 agosto 1961 fui svegliato da un grido di disperazione. Avevo 7 anni e mezzo e dormivo con mia sorella, più piccola di me, di 3 anni. Subito dopo quel grido spaventoso, mia madre è entrata in camera nostra. Ci ha detto che nostro padre era sicuramente morto e che bisognava accettare l'idea di non rivederlo mai più. Era annegato, con altri 5 adulti e 2 ragazzi in un naufragio. Ha aggiunto che potevamo piangere. Cosa significassero esattamente quelle parole, potete piangere, non lo saprò mai. Mia madre le ha sicuramente dimenticate e io non ricordo bene il resto di quella notte. Questo era l'incipit di Bisogno di libertà di Bjørn Larsson. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 6, volume numero 2, Indice, Karen Lano, Fog, Fish Boy, Sigur Rós, Paolo Benvenu, Einstürzende Neubauten, Tiago La is Losing the Plot, Settlefish, Clipped Beaks, Young Galaxy, Future of the Left, Iron and Wine, Shocking Pinks. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.